fruscia e occhi. Me ne ha fatto un'altra per me, l'ho finita adesso, vabbè, è già sul tetto, però la devo tirare su, allora, c'è vento un po' qua, la devo solo tirare su il palo, capito, che i miei pali sono pali in oggetti, sono pesantucci da tirare su, e c'è un po' di vento, però l'antenna è già sul tetto, gappa, segnale come buono sempre, sì. Si attenuati come te e non che non venne più smitter. Chiave chiave, ti piacciono allora le nuove bobine Luca Master? Appa, vanno bene, già pompa già, pompa pompa, va alla grande, purtroppo io qua non la potrei mettere perché non so quanto ci rimango. Devi pensare a queste cose, no? Capito? Tu devi pensare solo che la metti e quando ti andi nei avuchi da voi, intanto per qualche anno ti fai, capito? Ti fai sentire e senti soprattutto, capito? A pensare quando te ne devi andare. Vabbè, allora. E poi per toglierla, se mi hai detto che volevi schiumare, fai questa cosa. Vabbè, tu sei in basso, non è che prende tutto, basta fare la doppia struttura bombasta senza schiumarla, capito? E così la puoi smontare. Si spezza? No, non si spezza, doppia struttura non si spezza. Sì, sì, ci penso adesso, appena che vediamo di punirla, ma bisogna punire al centrotetto, noi no. Perché lì cosa... Basta mettere due saffi lì, così ce l'hai a portata di mano. Dai, capi lì il centrotetto, cosa di una furti. Se ce l'hai lì, dove hai messo l'altra? No, un bel pigiante. Cosa? Due canne la becca su me. Ci penso, poi vediamo, dai. Che va? Non ha più la possibilità di punirla. C'era quella Game Master, quella che mi hai detto tu, ma mi sono cazzucciato. Ho deciso subito di non metterla più. Perché? Vai, gatto, non c'è mai me ne pare in capo questa cosa. C'era Gianni pure, a chi ti ne pare in capo a te? Infatti già la giubizio può essere stesso. Purtroppo quelli lì hanno il problema. Capito. Le mie sembra che non le tronchi da un po' di anni ormai che sono piazzate, capito? No, non gli ha fatto mai niente il vento. Doppia struttura purtroppo bisogna fare però, perché una semplice canna da pesca la tronca. È normale, è normale. No, abbonimo, cioè, se si fa un bel lavoro si fa. No, perché la doia, è inutile che io metto una cosa da pagare più di 100 euro, cazzo che non mi si tronca, attinante, se io vengo l'antenna così, guai, mi mando le mail, scritta di me alla Sirio, cazzo di maledizione, di cosa, no, meglio la retromarca, però avrei preferito mettere una delle tue che almeno so che non si tronca. Pensa che la Game Master come spessore è il doppio, come spessore è il doppio della classica canna da pesca, forse anche qualcosa in più, capito? Ma non è conica, kappa. E l'avevo data, e mi sembra già un paio di settimane, e 2 settimane già che l'ho data la Game Master. Ah, si la tenga a capirà. Prima ero deciso, mi. Poi quando ho visto le ultime cose ho detto no, io devo punire questa cosa in un'altra capicciuria. Vai, che se mi fa danno qua, se si tronca, è un casino. Beh, quello sì. Dipende quanto la sollevi a tu, dipende il vento che prendi lì, capito? Considera la tua altezza, considera l'altezza di Gianni, cioè non puoi paragonare. Magari a te non ricocca manco un bello. Vedi tu. Qua preferisco che me la fai tu, perché a me non so. So come si dice? So che non mi si dronca. Cioè, perché magari tu l'hai già contattata, che no, hai pigliato vento un bel, e so che non mi si dronca. Perché se io vado a spendere più di 100 euro e vedo una cosa del genere, guai. Guai, cazzo, cioè vado su tutte le carte, è meglio la Ringo 100.000 volte, cazzo, è arrivato a questo punto, allora che alluminio, cioè cazzo, no, cioè, se vedo la cosa che mi si dronca, apriti il cielo, apriti già sai che sono un po' carino sul fisico, su queste cose qua. Aspetta un attimo. Il problema è che bisogna, capito, bisogna farla lì, anche se non la schiumi, però bisogna farla sempre lì perché devi aprire le due canne, mettere una dentro l'altra, eccetera, eccetera. Bisogna farla lì, sempre sul posto. Sì, bisogna farla sul posto. Cioè, quello che vuoi tu, cioè, la fai sul posto, non la fai sul posto, questo che dice. Però, cioè, se tu mi l'avrai garantita come quella di Tore, di Tore Squalo, cazzo, che ci fare 5 anni sul tetto, che non le ha fatto nulla, che è tranquilla e cosa, allora io ho il cuore in pace. Cioè, ma di un'antenna, manco un anno, cazzo, che la vedi bugiata. Cioè, già mi si girano dei coglioni a me, ti dico la verità. Ma l'assilio ti consiglia in zone ventose di mettere i tiranti, capito? Se l'antenna prende vento, di mettere i tiranti, tre tiranti, quello te lo dice proprio, che è poi responsabilità tua se ti si tronca. La gara un die allo negozio. Allo negozio. Io adesso domani la tiro su questa, infatti ho lasciato la scala, questo è un paio di metri, domani la tiro su il primo palo e poi da giù dal terrazzo tiro sul secondo, che i miei sono due pali uno dentro l'altro, ma sono quelli innocenti, capito? C'è una 50 e una 40, capito? Che l'avevo fatto tipo cannocchiale. Va tu bene. Io con poca potenza, bene ti arrivo. No, che se 9.30, passa tu buco. Sì, allora già va bene. Sono pochi watt. Io sono, aspetta, 8 watt. Vabbè, se fischio se ne va oltre il 20. Se parlo se ne va 15, 14, 15. 12 watt, ciò. 12 watt modulati, io la voglia che basta. Beh, se attacco se ne va 9.40, giustamente. Ma sicuramente io ti vedo, sicuramente. Sei così forte perché ti vedo. Vai, andare a farmi un caffè. Allora andare a farmi un caffè, dai, ti chiamo dopo, che ero sempre in terrazzo, facendo struttura, antenna, collaudo e tutto. Allora mi faccio un caffè. Che piacere, dai, ci sentiamo tra un po'. Ui, buonasera. Buonasera, ecco, dice Milano, ecco, non posso stare in radio. Dai, sono Marco Rex, ciao a tutti. Dino, fai fai. Ciao a te, e come ti vanno, sei di Pennichella? Perché devo fare una consegna. Va bene, va bene. Qua sei 9.40 abbondanti, va bene. chiamo poco da farmi un caffettino. Sempre il solito è questo, va bene. Vai, a tu, ci sentiamo dopo. Veglia dopo anche io, ciao. Sì, ciao. Attenzione, canali 10, copriate il mondo, lo cambio. Chi è avanti? Sempre io sono, ma ci batto un caffè, gaffa. E me azzurra ci batto. Però lo mischio con latte perché non mi piace troppo puro, capito? Ehi, gaffa gaffa. Bravo, bravo. E che caffè usi tu? La faccia crema e gusto. Al momento è quello giusto. Io compro quello qualità oro. Penso che costa di più di tutti. Chi su di cosa? Quasi 5 euro la confezione. Quello rosso io compro, tu. Quello rosso. Sì, io compro l'altro, quello oro, quello il più costoso. Ma se non mi scegli un attimo, però aiuto, magari a caffè di sebiglietti. Non mi piace normale. Cazzo, io metti un compagno a caffè e se non mi scegli un turno. Boh. Ognuno c'è i suoi problemi, purtroppo. Beh, ti fate una diarrea. No, non me ne fate diarrea, no. Ma che propagazione oggi c'è? È da cantare che senza intendere nulla. Sarà se lo beve normale. Mi ha sciabonato senza un tindini di propagation. Che ha trovato anche aspettando. Hola, esci a leggi. Corroborato devi intendere. Aspetta un attimo. Ehi, Santiago 3. Vai sul 5 però, 3, 5. Prova. Non c'è segnale, c'è la stessa radio ma adesso non c'è segnale. No, S1 sì, non di più. E magari sono scariche infatti. Però già c'è la radio, Prova S1. Ehi, fai. Ehi, sei senza segnale ma già ti sento. Sì, c'è una cosa, dai. Adesso sì che mi hai fatto sordo. Vabbè, però dai, per non avere coso. Già va bene, mi sono capacciato nel lucernaio, però anche da dentro già pompava lo stesso. Sì, era meglio da dentro che da fuori. Davvero, me. Dentro di 4 anche a 5 arrivati. E cosa fa? Quando allora se devo attaccare l'antenna a qualcosa non ce la fa le batterie sicuramente daranno un watt e mezzo la batteria, un watt e due watt così con le batterie. Se attacco l'antenna grande non ce la fa, devo attaccare la accendisigari, allora ce la fa, capito? Allora ce la fa bene, non c'è problema, però col coso con le batterie è più limitato, però già funzionano ma stessi. Ho fatto le prove con Sara e sono allontanato e mi sentiva sempre. Probabilmente uscendo 5 watt sai la batteria come ti tiene la succia, quello è il casotto di quegli apparecchi. Sì, però se lo tieni sicuramente uscirà un watt. Se lo tieni nei limiti funziona bene. Cioè ci vai in automatico con le batterie. E tu mettiti un pacco batterie all'esterno, che li vendono già pronti con 4 batterie. Te li attacchi dietro, capito? E c'hai il doppio dell'autonomia. Però devi mettere batterie a litio, batterie buone, a scarica lenta. Non lo so. No, passo con quell'attacco particolare lui. Con molta potenza, se no ti può andare sempre a minimo. Che bello. E attenuandomi quanto ti arrivo, tu? Ci abbaido. Vai. Vai. attimo e passo alla portante, vedi un po'. 9:10 attenuato. Ciao. Molti picchi alti questa radio. Capito? È così che a molti è buona, ultima come radio. Gappa. Guarda che tantissimo mi ha attenuato. Se avessi un'antenna, una 5 ottavi sul tetto, come si deve avessi se è arrivato anche di più? Che aspetti, se arriva a 9:30 a Claudio, se mi immagina. Quindi l'ho fatto la grande, Antonio? Sì, l'hai passato, ti. Ah, gare. Tira! Uova, ma perché quando parlo mi si accende l'altro, non si accende l'apparato che è spento? A me si accende la battrice. Gare che è passato a me. Non hai capito niente, tu devi stare attento, devi essere più sveglio. Via. Non ho capito che è passato. Ti ho detto, allora l'ho crepato, Antù. No, Luca ti crepa te qua. Sì, anche più vicino, perché io sono a Plattamona. Già non so qui. Cucino, già arrivi forti, Burundumi. Non è buccia di giocano. Davvero? Hai capito. Non è mica tanto poco, no. Adesso attenuato non lo so, Però non è poco. Io che sei oltre 9:25 sei, Prova a attenuare, c'è un po' di casino qua, Prova a attenuare, guarda un po'. Lui è 9, tu sei 7. Lui è 9:10, parlato, tu sei 7, parlato. Non è cuscino, è perché sei più distante. Ma non è cuscino assai, ti arrivi forte pure in occhio. Lo so, è così. Infatti adesso devo andare a tagliare il cavo perché è più forte di me, quindi. Per la vicinanza sì. Però pure tu, come sei lontano, e non che arrivi forte, te lo sto già dicendo. Uova. Non ho visto il video che ti ho mandato, che l'ho messo sul tetto, l'ho fatta in fretta e furia, si antenna, struttura, tutto grande, messa sul tetto, però è 1,80 m dal tetto adesso perché non ne avevo più voglia, ho detto domani la tiro su, e domani mi tiro sui pali, gappa. Come vai, sciù, lalla. No, vabbè, non l'ho guardato perché l'ho sentito il messaggio, ma ero qua in sala e il telefono c'era in cucina. Io l'ho fatto con la nuova bobina. Fatta, domani la tiro su e Andare. Artù, guardami qua, attenuato, che ti cambio il radio. Però dammi un segnale giusto, ok? Dai, attenuato, adesso attenuato. Guarda, così attenuato, com'è? 1, 2, 3. E poi ti cambio il radio. Gabba, te l'ho detto, così sei a picchi di 7, sì. Vai. Oh, questo invece è un po' più basso, vero? Sì, così sei 5. Allora, da me passavi da 9, non attenuato, da 9,50 a 9,60 e quando è cambiato 9,40 fisso però, sia nel parlato che nel portante. Beh, questa è la classica, la solita, però la radio ha cambiato. Sì, ma è bello lo stesso questa, eh. Mazza che tiene varia, gara. 9,10, addirittura anche di più di 9,10 attenuato. Ma così? No, è impossibile, stai sbagliando. No, sto dicendo a Luca. Vabbè, Luca è più in alto. No, Luca, questo qua è il K. Con questo sei 9,40. Sì, vabbè, questo non dà neanche 100 watt, questo. Beh, però 9,40 con picchi a 9,40 sempre, mentre l'altro fai da 9,50 a picchi a 9,60. L'altro è più spinto. E tu mettilo sopra al 9, al l'altro, attacco lo grande, con il spicci. Aspetta che attacco l'altro, aspetta. Eccoli qua. E questo invece è lupo. È sempre 9.40. E a tu, e a te, questo è il piccolo piccolo, eh. Aspetta che guardiamo, dimmi. Guarda questo qua, questo è Lincoln. 6.5, se a picchi di 5. Cioè, questo piccolo ha la stessa cosa del 450, devo immaginare. E pompa, pompa. Questo è più acuto però, come radio. Cosa ti posso dire? Più barattoloso, amico. Sì, ma più tonnellale. Ah, toni molto alti, ma va bene. Ah, quindi ne devo dare di meno ai toni. Vabbè, c'è casino, non si possono fare queste proprio così. Aspetta un attimo, guarda adesso, 1, 2, 3, ha cambiato qualche cosa. No, passa, passa. Così ho abbassato di volume, dal mic. Ma non è che cambia molto. Quasi niente da me, forse da Antonio. No, neanche tanto, sei sempre a 5. Aspetta, guarda adesso, Antonio. Ha cambiato la radio, Luca. La radio è buona, è buonissima, no, non c'è problema. Sì, 5, poco poco 6, dai. Già va bene, già va bene. Luca, apriamo. Senza essere attenuato è a fondo scala proprio. Attenuato e ce ne va oltre 9-10. Ma è una cosa allucinante. Vabbè. Anche là è vicino, è un cuocuoma, è lui, è un cuocuoma. Cartelle di plastica, baffuzza. Che ridere, che ridere, che fai, cazzo. La manto va già a pompa. Adesso gli faccio uno squillo a quello, perché non devo aspettare cose sue. Mi devo tagliare la legna, porca miseria, quello che ha fatto mi lupo. Ancora no. Quell'altro che mi ha detto, ho capito, ma se no Padina magari ha rinunciato. No, questa è un'altra persona, questa è già, cioè, una cosa stabile. Allora sì. Sì, mi dà curiosità, ma quanto è alta? Eccole qua, aspettate, mio, scusate. Cos'è tu? Cosa stai dicendo? Quanto è alta quella lì? E siamo intorno ai 7 metri. E quanto è la manto? Vada. Sì, approssimativamente quanto è la manto? Sì, 90, dai. Eglia. Di un'aria zero, così. E 1.02, 1.01, 1.02. 1.01 dove ce l'ho già? E dove la tarò io, capito? Centro banda, canale 20. Poi andando su 45, su quel canale lì com'è? 1.08, non cambia molto, capito? 1.06, 1.08, 1.1 non ci arrivi mai, comunque. Un po' è. Ah? È un po'. Un po', che cosa? Stazionarie. Un po' alte in quel canale lì. Alte, 1.08 sono alte. 1.08 meno 1.08, 1.08, che non arriva neanche a 1.1. Ah, cazzo, non l'avevo compreso. Pensavo che era 1.08. No, da non confondere. 1.08. Io la faccio solitamente 1.01, 1.00. Poi da 1.00 a 1.1 ve ne passa amianto ancora, capito? Arriverà su 1.06, 1.07 nel 45. Via, ho visto. Andà bene. E quello dell'altro cos'è, Antò? Cos'è, un 150? Quale? Mi avevi detto che avevi un 747 e poi un altro. Quello dell'altro cos'è, un 150? Il B150. No, meglio il 747. Sì, sono spenti adesso, non ce n'è bisogno. A mio parere, va bene, devo fare un ammasso, dai, così almeno me ne tolgo altri 3 kg, sennò è un casino, ok? Mettimene 2 a parte a me invece di darle così, capito? Dammi 2 a me prima che le finisci, cazzo. Tu, se le vuoi 2 te li metto da parte, tanto sono sotto vuoto, eh. E certo che le voglio, ma scherzi. Cappa, anche 3. Se no poi finisci e ti tieni il tuo ed è un casino poi che non ne ho io. Eia, pesale e tutto quanto, cappa. Ma 3 kg o 3 giri? No, 3 me ne servono. Cazzo, 3 giri. Tre di numero. Perché intanto un paio le facciamo fuori a coso. A Capodanno. Anche 4-5, to. Vai, fai 4-5. Fai 5. Ma sai la sei vendente? A 20, a tu. 20 al chilo. Ehi, affumicata però, no. No carraggio, no. Sì. Se ne vuoi, non so, 2 kg, 3 kg si può fare lo sconto. Non hai visto il video su Facebook, tu? Per essere fatta come si è fatta, è buono il prezzo. Cioè in casa e tutte cose. L'abbiamo fatta noi, Antu, l'abbiamo fatta noi. Cioè adesso il video non l'hai visto perché è su Facebook. Sì, stavo guardando. Aspetta, se lo trovo te lo giro. Sì. Un pezzo di video che ho messo alla fine della tarattura. Cazzo, domani torno a travagliare. Stava troppo bene a casa. Vai a vedere. Ecco, ti ho mandato il pezzo del video, se riesci a vederlo. E perché non devo riuscire a vedere? Via il cellulare, va. Aspetta che lo apre. Capito? Ho visto la foto, bella roba. Hola. Dica. Chico. Buca. Ehi, Anto. Sì, stavo ascoltando, bravo. Però quella lei, quelli della porta, no, non la sento mai, non la sento. Cosa? A quella che tu hai fatto l'antenna, quella femmina, non la sento mai io. Perché non ho avuto problemi col condominio. Perché il fratello gliela messa nella ringhiera, capito? Però gli ha detto cosa al condominio, che bue, ma allora l'ha messa per terra, solo che cazzo la si è arruinando così, mettendola per terra, perché il condominio si è lamentato questa cosa lunga, capito? Cazzo, la metteva sul tetto, via. E peggio ancora, se si è lamentato il condominio vedendo il terrazzino. E vabbè, sul tetto non ti può di nulla. Di che me ne bene uno no che rompermi il cazzo, mi dica sai vi buone cazzo, o ti pigli tutta cazzata a faccia ti pigli, io vai. Ormai solo se disturbi ti possono dire qualcosa tu. Ma appunto, vabbè, ma nella finestra non c'è nello terrazzino, non è il massimo, dico la verità. E tu perché non la tiri su, scusa, due stanze, cosa ne vuoi? Io ce l'ho sul tetto. E allora? Cavolo, mica ce l'ho così. Io ce l'ho sul tetto, quindi non ne ho problemi. Ma nelle staffe del condizionato? Sì, però è sempre sul tetto l'antenna. Alzala. La garata Guccini, non si sa mai, me ne pare, se mi fa caluccernaglio mi fate danno ai occhi. E perché ti devo rompere l'uccellaio? Anche io sei un'antenna di gaucciù. No, non è che sia un'antenna di gaucciù, ma magari è troppo alta, sai. Dovrei mettergli qualche sostegno più. Già gli ho messo una placca e ho risolto un pezzo di ferro da marcheggio, ma gli ho pigliato e gliel'ho piazzata al palo. perché se no non mi teneva molto, capito? Mi si coricava. Allora io ho preso un pezzo di placca bella dura, gliel'ho piazzata nel tubo, da giorno non ho avuto più problemi, capito? Non so neanche che antenna sia. Gara. Adesso ti mando la foto, ti mando la foto. Manda la foto, eh. Un attimino le musica di Marazzurria. Sì, te l'ho mandata. Si capisce però. Allora. Vabbè, la puoi sollevare quella lì, cos'è? Vetrolese, non sai? Alluminio. In alluminio è come la Mantova, in alluminio. È sollevata vuole però tu, perché dalla colmina sembra pochissimo che esce. Lo so, però la lascio così, la lascio, potrei sollevarla un altro po'. Ma... la lago si parava. Ma perché le staffe non tengono per sollevarla di più, scusa? Potrebbero tenere, perché c'è un altro palo piazzato sotto, però non mi fido io, ci devo salire sul tetto e non è mica tanto bassa, no? Devo salirci proprio sul tetto per piazzare PL e cosa, non è che ce l'ho portata di mano, no? Sì, ma scusa, se tu il tubo lo monti da giù, da quel terrazzino dove è piazzata lì, direttamente, un bel tubo, un tubo, tanto quello anche un tubo sottile va bene, non è un'antenna pesante. Vedi, un tubo telescopico e sei a posto, da 6 metri, un tubo telescopico e fai tutto da terrazzo. Ma solo che è troppo brillante, per il tipo di sapagheno, non mi fido, compreso, per quello è, sarà da 2 metri da... mi difendo bene, non è che posso pretendere chissà cosa, anzi mi ha dato soddisfazione la verità. No, non mi fido, perché dovrei mettere delle staffe un po' più, perché se metti già 6 metri di tubo è per pigiante, quindi c'è il rischio che si pieghi col vento. Sì, se ci vorrebbe un tubo da 6 metri anzù, capito? Perché poi alla fine dal tetto non escono 5 metri, perché tra staffa e tutto ne perderà almeno 2 metri. Sì, sicuramente. Sì, ma non è manco minorita, no? Perché il tubo telescopico? Perché così eviti di salire sul tetto, eccetera, eccetera. Puoi fare tutto dal terrazzo, capito? Con una scala tiri su a bulloni, invece che da manina devi attaccare sopra a gabbioni, è un casino, capito? Lì invece fai col tubo telescopico tutto dal terrazzo. Non è un terrazzo, no, è un cernaio, hai capito? Che praticamente te apro, hai capito? Apro, lo faccio scendere, salgo su e tiro. Mandami un video come sei messo tu, che non ce l'ho presente, capito? Sì, aspetta, va, un attimino, vai, sì. Ehi, parli! Ehi, no, tu la bottante, come? Come va questo 140? Una bomba, molto bene. Ancora sappiamo fare qualche cosetta. Già va bene già. E beh, lui hai visto com'è fatta? Sì, aspetta, vediamo il video. È una bomba, ogni voce è radio così. Ma non era così, però. Già lo so, già, io ce l'hai fatta a luci. Sì, andava, però non era così. Sì, andava per morire, incinciudata era. Adesso già funziona. Vabbè, si incinciudata un altro conto, però io parlo di normale. Normale non va così. No, non è ancora la radio, non va niente. app in SSB, cioè a fare col carinamento, qualche fesseria, però sono cose che non posso fare io. Però almeno funziona adesso. L'ho visto come lo fanno, lo sai. Allora praticamente hanno una specie di strumento, la staccano all'apparecchio e ti esce l'orto, se è spostata, se è allineata, ti esce proprio la frequenza esatta, quanto di kilohertz è spostata, tutte le cose. L'ho visto come li fanno. Lo so, anch'io lo so come lo fanno, ma ci vuole lo strumento per... Cosa che io no? Cappa. Sì, l'ho visto. Ho visto proprio come la fanno. Dici esatta è la frequenza, come schiacci il microfono. È sicuramente uno strumento che costa un sacco di soldi, quello. C'erano i tecnici, quelli che li fanno tutti i giorni. Ma certo, è un allineamento a sonda. La sonda allineano. Le frequenze dovrebbe corrispondere con decimale zero, dovrebbe corrispondere a quello strumento lì. E poi loro vanno a toccare quello che devono toccare. E vabbè, ognuno il suo, ognuno il suo bubetto. Io so fare quelle due cazzate che mi hanno insegnato e basta. Vabbè, ognuno c'ha il suo lavoro, c'ha. Già ce ne sono, già quando mettono le mani già sono bravi, già ce ne sono anche qua, io ne conosco uno, due, tre massimo che qualcosa la sanno fare. Altro break. Quello uno, due che ci sono, io ne conosco uno solo, sì. Grandissima attrezzatura, capite, per fare le cose. Poi chiaramente se vuole Vittorio c'è anche lui l'attrezzatura per farlo. Vabbè, avanti il break, c'è il break a Sant'Antonio, ti rilancia una non entri. Vabbè. Avanti, chi vuole entrare, noi siamo aperti qua, siamo qua. E quello che ho fatto per Ubi, ho visto che è capace, mi ha fatto un apparecchio veramente capace di fare queste cose. Cavolo, in 448 si l'ha magnato, cioè si l'ha fatto così, si l'ha fatto come niente fosse. Quando c'è l'attrezzatura, cosa devo fare? Io l'attrezzatura ne ho, quindi non posso fare cose che sono da fare bene. Faccio chiaramente quelle due fessie che so fare, che mi hanno insegnato, ma senza automatazione. Se tu devi cambiare una resistenza la cambi, se devi cambiare un diodo lo cambi, se devi cambiare un finale lo cambi, no? Che vuol dire automatazione. Una volta che sai che quello va a cambiare, non è che fai a... E poi le regolazioni di questa radio me le ho sempre saputo fare io. C'è bisogno di strumentazione. Una volta che c'hai, che sai dove mettere la mano, vai e apri. Vabbè, comunque, ognuno il suo. E va bene così, l'importante è che ognuno faccia il suo, non quello degli altri. Ognuno c'ha l'arte sua, cavolo, se vuoi ben senti di ICI e compara a me un pezzo di garre e così in ammira senza notte, anche c'è un pochettino di roba avanzata, ma volevo mangiare qualche altra cosa. Vedi tu quanto devi fare. Vabbè, aspetta, andiamo a fare un attimo che vado in cucina a vedere appunto cosa c'è da fare stasera. Già ci sentiamo dopo, sono qua tutti. E a cappa, dai. esci. Oh, mi dice a me di giocare. Ehi, adesso va a fare la paella. più comodo quando vabbè, ognuno cerca le sue comodità. Tu tendi il vento, cavolo, però è passata la temperatura, sì, l'ha detto, e poi lunedì, domani è peggio, ma tu non vedi, ma giù fatto la luce, un bacco a becco, vabbè, per il vapore acqua più che altro, però e tu non vedi, ma è Luca Carendi, e poi alla fine l'ho dovuta chiudere. Poi quando metti l'acqua a calda fa un po' di condensa, no? Quindi c'era nebbia in realtà, ha dovuto aprire casa per togliere la nebbia. No, vabbè, io l'ho aperta, ho aperto l'acqua a calda a farla scendere, no? Insomma, a scaldare un po', e poi ti butti sotto, come fanno tutti. Però la porta era aperta, diciamo che la condensa era poco e niente. Se no cominciano i fantasmi. Vabbè, io lo faccio una volta alla settimana, visto che non lavoro, sì. Infatti. Ditemi una cosa, ma voi luce ne avete? Sì, state parlando, ce l'avete. Oh, niente, ho fatto una domanda stupida. Batteria non ha ginocchi. Molto bene, anche un gruppo elettrogeno. Sì, infatti. Ma c'è più di un amico che ce l'ha in campagna, la luce non manca mai, perché... Quando manca la luce dalla rete principale si mette in azione il gruppo, quindi. No, perché c'è un mio confidante, mi ha chiamato, ma luce ne ha, detto sì, allora c'è un'altra linea, andare. Intanto manca. Qua è raro che manca la luce, come l'acqua lo stesso. Ma no, l'acqua qua, ma parlo di forse 30 anni fa. È stato un giorno e una notte sempre tirando il pozzo e non si è svuotato. Adesso invece ho un'economia di massimo 4 ore. Io ho visto quando manca l'acqua Sassari, a me non mi è mai mancata. Senz'altro c'è che l'autoclave e qualche pozzo. Ma e tu perché non sei in campagna? Cappa! E allora pozzo non ne hai? E cosa ne so? Sai, cisterna, qualche cosa del genere, non è casa mia. Vabbè, ma sai, uno magari lo sa perché ci abita e lo vede. Io sono 10 anni qua, però ti posso dire che non è mai mancato, non mi sono mai informato. Ah, va bene. E quindi tu paghi solo la corrente, però? No, solo affitto. Ah, bene. È tutto compreso, eh? Cappa, non pago neanche le luci, tasso bombezza, niente, zero. manca solo così, non la giappo, Ui, lascia perdere. Va bene signori, che vado a fare una doccia veloce, mi metto in tenuta casalinga, che ne sto tornando da fuori, quindi mi voglio mettere in pantofole. Io sono già in pantofole, uia, sto così bene, guarda. E tanto per cambiare, oggi mi sono fatto un bel minestrone di verdure solo. A chi ne soffrirà come gli ha fatto il forno. Ma non parliamo di mangiare, che oggi lo stesso anch'io, non è che. Insomma, ho mangiato leggerino, però dopo questi 2-3 giorni di festa mangiare soffrire tanto non si sa se mangio o meno, lo vediamo. Ma io l'ho fatto un po' in più, ce l'ho anche per stasera il minestrone, sto bene. Domani un'insalatina e una fettina e un bel leggero, basta. Basta forno, porcetto, carne. La carne la sto odiando, non è gana. No, quello no, posso odiare altre cose, ma la carne. Quindi a differenza del pesce che mi piace, però se lo mangio oggi non lo mangio domani, mentre invece la carne la posso mangiare oggi, domani, dopodomani, tutta una settimana, non ne frega niente. Ne ho mangiato troppo di, capito? Tra i miei porcetto, guarda, ne ho le belle piene. I gamberoni non mi piacciono. Quindi, niente. C'ho metà porcetto ancora in freezer. E sì, Capodanno lo porta la 50 e ce lo mangiamo insieme. Perché dai, ce l'ho pensato. Forse ho svogliato perché ne ho mangiato troppo. Basta. Va bene, dai, ti saluto Tony, che mi sposto così vado a farmi la luce, sentiamo più tardi se coincide, così almeno passiamo un'oretta, ok? Ciao Luca, ciao anche agli eventuali ascoltori, ciao a tutti, riprendi Tony. Ciao Tino, ci sentiamo, senza ombra di dubbio, tanto chi si muove da qua, sto così bene al caldo. Ciao, buona luce, alle prossime, ciao ciao Luca. Ciao. Ciao Claudio, ciao, tanti auguri, ciao. Ciao. adesso quando esce va bene o si può aumentare un pelo? No, aumentare niente, non ci vuole, lascialo così. Metto c'è questo cazzo di problema, non si riesce a capire cos'è, no? Però quando esce già esce bene. Va bene, chi era Luca l'altro? Luca tu sei? Forse ne hai fatto qualcuno, no? Aspetta un po' io. Ho fatto una pena. Ora, ecco così va meglio forse, aspetta. Ora sono basso, aspetta. Ora, ecco qua. Così ora. Così sono 20 watt di portante bianca e 70-80 volati. Va bene. Ottimo con la truppa. Come ciò che lo avevamo già controllato 2-3 volte, poi l'ha arrivato anche a lui, non capisco che fa quell'effetto. Adesso lo sto tenendo un po' con la mano, diciamo leggermente piegato, ma quindi adesso va bene. Ora c'è qualche filo, tocca non tocca, ma non ne esauguro. Sì, va bene, ma tutti i bimbi, già avevano già anche i microfoni. Cosa vuoi dire? Poi Luca mi è sembrato l'altro, Luca, ma che stava facendo cosa? Sto facendo cosa, sto andando qua. Sono entrato a disviaggiare e stavo uscendo male. Ciao comunque Claudio, ciao Luca, auguri, buon Natale, avanti. Ciao già, buonasera, abbiamo ascoltato anche a te. Una festa, ormai è Natale finito, adesso dobbiamo aspettare a Capodanno e poi all'anno nuovo. Lo vado alla fanculo quest'anno e ci ricorderemo per quanto campiamo. Avanti, Massimiliano. Vabbè, ci vuoi fare, purtroppo così va. Stasera ci porto su a mio suo, ci hanno dormito 4 giorni e così non sono stati soli. Stasera ci riporto su a casa loro e così tutto l'oggi, no? E a che ora li porti? Anche alle 10. E quindi? Aspetta che ti chiamo un attimo. Allora ce l'ho giù il telefono. E vai a pigliarlo. Che appaggio, aspetta. Aspetta già un attimino che chiamo, o chiamano, ci vediamo, se ricordate di una cosa. Qua sono io. Hai visto di nuovo il cazzo di radio? Adesso ci fa sentato Fabrizio in ascolto, vedi? Di nuovo difetto l'altra volta fa. Si mischia tutto l'eco, tutto qua. Sì, è un casino, esce già. Reverbero, ecco, non tutto un casino, fischi, tutto un casino. Allora non era da quella cosa là, No, perché vada in tilt la scheda proprio che comanda tutto quel sistema lì, mi capite? Sembra che vada in tilt proprio. Di Gesù Cristo. Vabbè. Poi ne compriamo un altro adesso. Ma infatti fai compra tutti i bini. Bisogna comprare, c'è un casino. Aspetta che chiamo Massimiliano, vai. Hola. Stavo facendo tutte le prove per vedere come andava. Niente, io sono già quasi una settimana, metto a posto, ma ci credi che l'ho già battuta? Sempre con caldo, tanto, cosa esce a fare poi sì? Ecco, io che sono andato a prendere mia figlia all'aeroporto, sono andato e sono uscito con il cane, vabbè tu non hai problemi perché sono stato bravo. Io sono uscito quando è 25, ci fate mangiare. Però visto che controlli non ce n'è, dove zia non ce n'è, non è venuta, No, già ci sono, sì. C'erano anche i droni girati. Posso guardi? Ci sono anche le macchine in borghese qui. Ci sono anche le macchine in borghese, sono i droni che stanno girando. Comunque. Da solo. Non mi fanno niente, se mi fermo sono da trovare mia figlia, quindi non succede nulla, capito? Oggi sono andato in farmacia, tanto, per le patologie che ho, ho il fluido come sono, cioè negativo col tampone, ne uso uno di più. Ho l'autocertificazione. Allora, voglio il suo manganello da un garage, un gatto con un colpo, da poi voglio vedere se chi sono drome, si drome. Come te chi tanto? Ma non glielo metti dritto? Ha detto, senti a pure il suo drone, e piglio un manganello da un garage con un coipo. Si va da nodo morto, si va. Io non ti ho capito, il suo drone. Il drone, come ti diciamo, ma chi ci vuole il ricottero minoretto, chi sa fare, chi tratta nei vigili, ma fa a buttare il bastone. Come si è trovato, ha cazzo di ricordo un coipo e vedi che diventa, hanno dovuto si fa. Ah, il drone che vola, che cerca le persone, i gruppi. Ma io ti ho detto, ma non è nessun 23, fuggitosi. Vabbè, no, hanno chiuso, allora sono passato qua. Avanti già. Sta facendo male già adesso. Radio 1, fischio, un bel forte. Ma comunque buonasera a tutti. Sta facendo male già. Buonasera a tutti comunque. Ti porto il fischio appresso. Come mai cosa gli è successo? Mi sta facendo un difetto il baracchino. Sicuramente. Comunque buonasera a tutti, capo, sono entrato e non ha più salutato nessuno, mamma mia. Sì, sei salutami, Gian Antonio. No, sono io, sono. È colpa mia. Gianni, hai attaccato il tuo baracchino. Gianni. Forse lo stava attaccando. Stavo cambiando apparecchio. E questi fischi ho sentito cos'è? Sentivo prima tipo un trasuone, boh. Anche qualcuno adesso l'ha fatto il fischio, però non so chi sia. Quando parlavi tu si sentiva questo fischio? Lo so. C'è qualche cosa, qualche componente in perdita, c'è. Del gas? Cavolo. Questa la sono macchine ben forti, cioè ben gamma forti, resistenti. Tu ricoveggi. Non andare a fuori chi di come io. Questo c'è. Capo. Apparecchio tutto, dai, non è nemmeno il microfono, perché il microfono quando l'apparecchio va bene funziona bene. Come dai un coso già? Per cambiare adesso il microfono. Che ha fatto lo studio, lo stesso. Non so, qualche fesseria, dai. Non fanno la fesseria ancora. Chissà che gli è preso. Cosa? Ho detto chissà cosa gli è preso. C'è qualche componente che... Sicuramente sì. Non lo so. Dopo qualche anno un po', sai. Te lo ricordi che ne aveva avuto uno che era andata male, poi le aveva aiutato e andava bene. Non sei uscito a finale. Perché l'ho mollato. Non si può pretendere chissà che cosa. Sono apparecchi che mi avevo dato giù. Io penso che c'è il microfono originale. Sì.